La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, dinanzi al Parlamento in seduta comune. Nell'articolo 91 si individua il momento in cui il nuovo Presidente della Repubblica eletto prende le sue funzioni e quindi entra in carica. Ecco il giuramento, perché il Presidente, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione. Questo giuramento avviene dinanzi al Parlamento in seduta comune ed è una particolarità dell'ordinamento repubblicano, in quanto, come sappiamo, i parlamentari non prestano giuramento, prestano invece giuramento i funzionari pubblici, articolo 54, e per le massime cariche il giuramento è previsto da articoli appositi, per il Presidente della Repubblica dall'articolo 91. C'è qui una piccola differenza storica, perché il Presidente entra nelle sue funzioni col giuramento, mentre ad esempio il Re prima entrava nelle sue funzioni alla nomina e dopo giurava. Quindi il giuramento oggi è il momento costitutivo dell'elezione del Presidente, per cui i 7 anni delle funzioni presidenziali si contano dal giorno del giuramento. Il giuramento tradizionalmente nella storia dell'umanità aveva una funzione religiosa, mentre il giuramento dell'articolo 91, come tutti i giuramenti di fedeltà alla Repubblica, sono chiaramente dei giuramenti laici. Infatti è un giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione. Questo giuramento, per formula rituale, viene ricevuto dal Parlamento in seduta comune. Quindi, dopo le elezioni del Capo dello Stato, il Parlamento in seduta comune resta nelle sue funzioni per ricevere il giuramento del nuovo Presidente.